Il rapporto annuale di Amnesty International viene pubblicato dagli inizi della storia della nostra organizzazione, che quest'anno festeggia i 65 anni. È una panoramica molto dettagliata dello stato di salute dei diritti umani nel mondo, costituita da ricerche che vengono condotte durante tutto l'anno dai nostri professionisti e poi sintetizzate in schede paese per paese. Il rapporto di quest'anno racconta lo stato di salute dei diritti umani in 144 paesi nel mondo, quindi una panoramica direi abbastanza consistente, della situazione nel globo. La nostra lettura è proprio di un mondo in cui milioni di persone vedono, la loro sicurezza personale, la loro vita, i loro diritti umani messi a repentaglio dalla violenza con cui, Stati Uniti, Russia e Israele sbriciolano le fondamenta del diritto internazionale così come è stato concepito dal 1945 in poi, non rispettando i trattati, denigrando, mettendo in difficoltà i giudici della Corte Penale Internazionale, compiendo attacchi illegali. Cioè, solo in questi ultimi mesi dell'inizio del 26, gli Stati Uniti, prima col Venezuela e poi insieme a Israele contro l'Iran, hanno compiuto due violazioni della Carta delle Nazioni Unite, perché non era assolutamente giustificato l'attacco che hanno condotto contro il Venezuela e contro l'Iran con scopi che hanno dichiarato come di autodifesa. E quindi questo è molto preoccupante, la loro prepotenza, il loro desiderio di dominio, di affermazione della supremazia commerciale, militare e tecnologica, mette a rischio, il godimento dei diritti per, milioni di persone nel mondo. E d'altra parte è altrettanto preoccupante che, ci siano dei paesi che assistono a tutto questo con un atteggiamento acquiescente e condiscendente, in primis, l'Unione Europea e i suoi stati membri, che non hanno fatto niente per condannare queste violazioni dei diritti umani. Il diritto internazionale viene attaccato non perché è fallito, ma viene attaccato perché non è funzionale ai desideri di dominio di questi bulli. Quindi il lavoro che bisogna fare non è assecondare il de profundis sul diritto internazionale, sul sistema multilaterale, sulla giustizia internazionale, ma quello che bisogna fare è ammettere che sicuramente ci sono stati dei fallimenti nella sua applicazione, in primis perché sono stati applicati in maniera selettiva, il diritto internazionale è stato applicato in maniera selettiva, quindi aggiustare e migliorare quello che si può migliorare in termini di norme internazionali, ma poi chiedere ai paesi che rischiano che sono minacciati da questi bulli di allearsi con le forze della società civile, con la giustizia internazionale, per contrastare questa ondata di prepotenza e questo attacco veramente senza precedenti ai fondamenti della convivenza umana. L'Unione Europea e il nostro paese hanno delle gravissime responsabilità perché non hanno, se non tardivamente, per quanto riguarda l'Italia, che ha interrotto l'accordo di cooperazione a scopo di difesa con Israele, questo è successo il 14, quindi l'altro ieri, ma fino ad allora non ha fatto niente per interrompere questo flusso di tecnologia e di armi che alimentano le guerre, di cui non parliamo peraltro, no? Perché i nostri media e la nostra mente sono pieni delle immagini relative all'Ucraina e alla crisi in Medio Oriente, ma per esempio non si parla del Sudan, dove è in atto da 4 anni una guerra che ha prodotto 14 milioni di sfollati e metà della popolazione sudanese, 33 milioni, è in una condizione di insicurezza alimentare, per non parlare dell'assenza di strutture e di infrastrutture mediche, il che rende poi facile il diffondersi di malattie ampiamente guaribili in una situazione sana, come per esempio il colera, o quello che succede in Myanmar, quello che succede nella Repubblica del Congo. Sicuramente questo irresponsabile traffico di armi, fare profitti vendendo armi, è un'altra delle condizioni di instabilità e di mancato godimento dei diritti umani in vari paesi del mondo.